sono tormenta, io consiglio non fa. Ligida, ascolta, te modera una volta questo tuo violento spirito intollerante. In che possiamo, fuorché in me mi ho sperato? Megacle stesso, Megacle m'abbandona nel bisogno maggiore. Or va, riposa su una fedora vita. Vedi che giunge! Chi? Megacle! Dov'è?